Incontri di Gianfranco Fabi. Questa è la storia di uno di noi, anche lui nato per caso in via Gluck, in una casa fuori città, gente tranquilla che lavorava là dove c'era l'erba, ora c'è una città. Buongiorno, buon pomeriggio, buona domenica a quanti ci ascoltano con questo brano notissimo di Adriano Celentano. Anni 60, mi pare, lo chiedo subito al nostro ospite prima di presentarlo. Non c'è dubbio, sì. Anni 60, le ricorda qualcosa? Le ricorda Milano, la prima Milano che ha incontrato? No, io Milano l'ho incontrata molto dopo. Mi ricorda una stagione, quella degli anni del dopoguerra, 50-60, dove magari si coltivavano valori come questi che vengono ricordati in questa canzone, che forse sono stati il punto di forza dell'Italia della ricostruzione. Allora, buongiorno e buon pomeriggio a Bruno Tabacci. Avrete buongiorno. Probabilmente riconosciuto la voce, assessore al bilancio del Comune di Milano, uomo politico, rappresentante appunto politico, che ha avuto una lunga carriera anche come presidente della Regione Lombardia, come assistente dell'indimenticabile, possiamo dire così, ministro Marcora. E cosa ricorda soprattutto del suo ingresso in politica? Perché è sceso in politica, come si dice? Ma era una passione maturata negli anni della scuola superiore, e ovviamente mi dividevo tra una presenza in parrocchia, quindi una formazione di tipo cattolico, con un impegno civile e sociale che era tipico della mia terra, dove la prevalenza era del pensiero socialcomunista. E quindi dove mi sono trovato ad avere un ruolo di distinto, di opposizione, però dentro un mix culturale che aveva una sua ragione d'essere, viene descritto anche nei famosi film di Don Camillo e Peppone. No? Ecco, quindi, che erano di Brescello, a pochi chilometri dal suo paese. Che è Quistello, esatto, sì. Un paese in provincia di Mantova, ma nell'Oltrepò, quindi quasi più in Emilia che in Lombardia, una regione in cui appunto la realtà sociale intersecava il mondo cattolico col mondo comunista e magari si sovrapponevano. Quindi da questa è nata anche un forte impegno politico. Beh, ma non c'è dubbio, guardi, a parte che quella è l'area del parmigiano reggiano in terra mantovana, perché sopra il Po invece si fa il grana padano, per restare in terreno dei prodotti agricoli di altissima qualità. Ma lì, ad esempio, nel paese dove io sono nato, c'è il monumento alla prima Lega Contadina d'Italia. Alla fine dell'Ottocento si fa questa iniziativa, che era di sostegno dei contadini che in quel momento erano in grande ebollizione. Il movimento si chiamava La Boi, i contadini si operavano perché erano in forte contrasto con gli agrari che li sfruttavano, e lì c'è un primo movimento, così come nel Cremonese c'erano le leghe di Guido Miglioli. Quindi c'è un intreccio tra la tradizione socialista e quella cristiana che trova una sua fecondità. In quegli anni era nata la Banca Agricola Mantovana, tanto per citare elementi diversi piuttosto che le casse rurali, oggi diventate banche di credito cooperativo. Ecco, indubbiamente, quindi un mondo vivo in cui l'ideologia contava, ma si guardava forse di più gli obiettivi di fondo, e si cercavano più i momenti di unità che non quelli di divisione. Ma l'ideologia certamente ha fatto sognare intere generazioni, non vi è dubbio, anche nello scontro. E però c'erano dei punti unitivi molto forti, e in quei film di cui prima si parlava lo scontro tra Peppone e Don Camillo era fortissimo, però c'erano dei momenti unitivi quando il Po stava tracimando, certo. Sono uno accanto all'altro a mettere i sacchetti di sabbia a sparare rafforzare gli argini del fiume. Ecco, siamo in un momento politicamente, non c'è bisogno di ricordarlo, altrettanto difficile. Sarebbe ancora possibile e necessario una grande unità del paese attorno a temi appunto quelli dell'emergenza, qualcosa di simile ma diverso ovviamente da un compromesso storico. No, no, nessun compromesso, ma una voglia di impegno civile che veda le persone camminare una accanto all'altro. Poi si possono avere anche delle opinioni diverse. Il problema è che la divisione di questi anni è una divisione che è stata coltivata nello scontro brutale degli interessi, senza più nessuna mediazione, non dico di tipo ideologico, ma neppure di tipo ideale civile, ecco, oppure con qualche marchio di natura sociale. No, niente, l'interesse è brutale, la furbizia. A me è concesso di fare qualsiasi cosa, posso fare denari in qualsiasi maniera. Il benessere deve essere costruito senza il lavoro e gli affari si possono condurre senza le regole e quindi anche i diritti si possono pretendere senza i doveri. Questa operazione ha portato ad uno scontro di proporzioni gigantesche che oggi vede l'Occidente in ginocchio e l'Italia all'interno dell'Occidente in condizioni di grande difficoltà, perché nel frattempo ha avuto l'avventura di darsi un equilibrio politico fondato sulla perseverare attorno alla furbizia, che non è un valore. Indubbiamente. Io non sostengo che si debba essere stupidi, voglio dire però che la furbizia è orientato, altrimenti diventa un modo per rifuggire dai doveri comuni, rifuggire dall'interesse generale e affondarci nell'interesse particolare. Ecco, ma guardando appunto all'impegno dei cattolici, che dovrebbe essere un impegno soprattutto di portare questi valori, i valori di serietà, i valori di onestà, i valori etici in fondo nella politica, c'è un po' di nostalgia quando i cattolici lottavano con il proprio nome per quella Democrazia Cristiana in cui lei è entrato negli anni 70. Sì, diciamo che la prima tessera è del 1966, avevo 20 anni e poi tutta la mia attività politica, partendo come allora si faceva dai ruoli insomma più modesti, insomma si cominciava a fare l'iscritto nella sezione, ma insomma io penso che quella storia è una storia di grandi partiti popolari. Poi si può immaginare che con l'avvento delle nuove tecnologie, con il fatto che la gente trova altri modi per stare insieme, forse anche quella forma partita è andata in crisi, però non c'è dubbio che quella produceva politica e una politica di una certa qualità. Devo solo dire che nel 1946, quando si fa l'Assemblea Costituente, 3/4 degli eletti erano laureati e il popolo italiano che votava per la prima volta il suffragio universale era per metà analfabeta. Adesso è esattamente il contrario. Abbiamo un popolo che è alfabetizzato e i laureati stancamente arrivano al 60%. Siamo l'unico paese occidentale che è calato di fronte all'alfabetizzazione della società dei votanti. C'è stato anche un richiamo del Presidente della Repubblica cioè nei giorni scorsi al fatto che le leggi italiane siano fatte in modo molto, molto scadente. Il Parlamento è quasi ridotto nella sua efficacia, nella sua capacità anche di essere il luogo invece centrale della democrazia. Perché si è ridotta la tensione verso non solo la cultura giuridica, ma anche il rispetto delle istituzioni. Le istituzioni non sono dei corpi morti che si possono trascinare dove si vuole, tanto no, sono dei corpi vivi e c'è il problema di farli vivere in maniera equilibrata, con dei contrappesi attenti, puntuali. Diversamente si finisce nella Russia di Putin, ma se vogliamo guardare alle grandi democrazie, quella americana o quella inglese, e vede che non è il problema della forma di governo, non sto discutendo se debba essere per forza presidenzialista o parlamentarista, è che nei sistemi di democrazia consolidata il punto di equilibrio passa attraverso la forza dei contrappesi. E questo è importante, appunto, dei contrappesi che però sono all'interno di una stessa logica, non sono dei contrappesi che segnano un relativismo, perché può essere possibile la destra come può essere equivalente la sinistra, può essere possibile una cosa o il suo opposto. Comunque ci vogliono dei valori di fondo che uniscano. I valori costituzionali che noi abbiamo respirato con la nostra carta, che è entrata in vigore insomma dopo la liberazione, il 1 gennaio del 48, ma il punto è un altro, il punto è che quei valori devono essere poi trasfusi nei comportamenti quotidiani. Su questo si è determinato uno scollamento. Uno scollamento tra la popolazione, i cittadini e la politica, ecco, può essere recuperato, e magari ne parliamo poi nella seconda parte, attraverso esperienze forti a livello comunale? Beh, certamente l'impegno della dimensione comunale resta decisivo, lo era anche nei decenni passati, ma oggi di fronte all'inaridirsi della vena politica il fatto di recuperare una buona amministrazione diventa centrale, sia come esempio, sia anche come motivazione per mettere il nostro paese nella condizione di una ripresa possibile. Incontri. Questo ragazzo della Via Gru si divertiva a giocare con me, ma un giorno disse: vado in città, e lo diceva mentre piangeva. Questo ragazzo può essere Bruno Tabacci, assessore al Comune di Milano, che è nostro ospite questo pomeriggio. Buongiorno e buona domenica ancora ai nostri ascoltatori. È appunto un ragazzo che, non più tanto ragazzo, ha accettato nei mesi scorsi di diventare assessore al bilancio del Comune di Milano, un impegno certamente duro, certamente di grande responsabilità nella giunta Pisapia, eletta un po' a sorpresa in un certo senso nella primavera scorsa. Ecco, cosa ha trovato quando è entrato al Comune di Milano? Intanto il rispondere a questo invito di Pisapia mi è parso un dovere civile, e quindi non è che aggiunge nulla al mio curriculum personale, però mi ha messo in discussione come se in realtà avessi bisogno di qualche ulteriore prova, e per certi aspetti mi ha fatto anche ringiovanire, mi ha fatto tornare indietro, e ho trovato una situazione molto difficile, molto complicata, perché in questi anni diciamo che la cura del bilancio è stata un po' lasciata andare. Do un dato unico, che su 2,5 miliardi, che è il complesso del bilancio del Comune di Milano, il peso delle entrate straordinarie non ripetibili sul bilancio 2011 è attorno ai 300 milioni di euro, che vuol dire che il prossimo anno non ci sono più. E in particolare fanno riferimento alla cessione della Serravalle, che ancora non siamo riusciti a vendere, attingimento alla riserva straordinaria di SEA, 170 più 124. Ora, secondo la mia opinione, i bilanci si costruiscono mettendo in relazione le spese correnti con le entrate correnti e le spese in conto capitale con le entrate straordinarie. Cioè, io posso anche scambiare capitale, nel senso che vendo un pezzo di patrimonio, ma per fare magari una linea della metropolitana. Certo. Diversamente faccio come i patrizi milanesi, che non hanno affrontato alla fine dell'altro secolo la industrializzazione, che invece alcuni di loro hanno cavalcato alla grande diventando dei capitani d'industria, e si sono limitati a guardarsi indietro e a pensare come vivevano bene nei decenni e nei secoli passati, e così tutti gli anni hanno venduto un pezzo di patrimonio per mantenere il loro livello di consumo, e sono finiti alla baggina, cioè sono finiti al ricovero. Anche perché Milano deve pensare un po' alla grande, deve pensare all'Expo 2015, ma deve soprattutto pensare poi al futuro, alle giovani generazioni, quindi non può permettersi di vendere il patrimonio dei cittadini per pagare le spese correnti. Ma è il comune in quanto tale, una realtà comunque che può essere gestita in maniera sana. Il Comune di Milano è uno dei più grandi, secondo comune italiano in fondo, la più grande azienda di Milano. Quali sono i problemi specifici di un'azienda di questo tipo? Ma guardi, intanto è una grandissima azienda, non solo per il numero diretto dei dipendenti, ma anche per quello indiretto, perché se aggiungiamo i dipendenti comunali, che sono 15-16 mila, aggiungiamo anche quelli delle società partecipate, che poi sono delle società di primissimo livello, A2A piuttosto, certo, che la SEA, e i numeri che vengono fuori sono enormi. Secondo me c'è un problema di riorganizzazione molto rilevante. Quello che si è tentato di fare sul privato lo si dovrebbe fare anche nel pubblico, ma non per stressare il lavoro, semmai il lavoro lo si deve caricare di responsabilità, mettendolo in condizione di saper maneggiare bene le nuove tecnologie e di farlo con grande efficacia, ma soprattutto di ridare alla struttura, che è di un certo livello del Comune di Milano, quell'atteggiamento da servizio civile che è assolutamente fondamentale, il civil servant, l'idea cioè che chi lavora nella pubblica amministrazione ha un dovere in più, chi lavora al Comune di Milano in fondo è privilegiato perché compie un'azione al servizio dei cittadini, ma lo deve fare con un rigore, con una passione e con una professionalità che sono assolutamente necessarie e decisive. Anche per mantenere un rapporto costruttivo tra i cittadini e l'amministrazione. Una città di Milano, appunto, che è una realtà anche dal punto di vista, diciamo, di comunità molto composita, molto diversificata, una realtà che peraltro di giorno ha 3 milioni di abitanti, di notte ne ha 1,5 milioni, di questi molti sono immigrati, di questi tanti sono anche di passaggio con Milano. Come può essere costruttivo il rapporto con la città? Beh, intanto cercando di spiegare ai propri concittadini e anche a quelli che vengono da fuori e usano la città, perché il problema dell'uso della città è fondamentale. I numeri che lei ha portato sugli abitanti e su coloro che invece la utilizzano, dice che c'è un andamento sostanzialmente a fisarmonica, certo. Un po' si gonfia, un po' si sgonfia, poi si rigonfia. Ovviamente questo comporta tutto un approccio al tema del traffico, della mobilità, che deve essere affrontato in maniera molto più radicale di come si è fatto nel passato. Non è tanto un problema di EcoPass, che tutto sommato appariva come una tassa. Il problema è un altro, è che bisogna cominciare a convincere i cittadini milanesi che l'uso indiscriminato, lo sfruttamento della città determina un effetto negativo sulla qualità della vita. E quindi bisogna essere così capaci nell'utilizzare delle misure che rendano più efficiente il servizio pubblico rispetto al trasporto privato. Quindi disincentivano ad esempio l'uso dell'auto, oltre che riorganizzare tutto il sistema del riscaldamento. Io penso che ad esempio A2A dovrebbe avere una sua missione storica nell'introdurre anche a Milano, come è stato fatto a Brescia, il teleriscaldamento. Sarebbe il modo per dedicare, non so, penso all'utilizzo della centrale di Cassano e di portare le acque calde su Milano in maniera da riscaldare interi quartieri, vuol dire abbattere le emissioni. Oggi il congiungimento delle emissioni da riscaldamento, quindi da edifici, con le emissioni di autoveicoli ha portato la città ad un alto grado di invivibilità, e quindi sono problematiche sulle quali bisogna coinvolgere la città attorno al problema della qualità, certo, della sua vita. A Milano si respira una brutta aria proprio in senso fisico, magari l'aria poi di partecipazione può essere anche positiva. Per questo mi permetto personalmente di spezzare una lancia per i ciclisti: cercate di fare qualcosa per le piste ciclabili, per dare maggiore sicurezza a chi si muove in bicicletta. Ma a parte questo problema molto particolare, guarderei un attimo all'Expo 2015. Come è impegnato il Comune di Milano? Che cosa sta facendo? Quali sono i problemi maggiori che state cercando di sciogliere? Beh, nei giorni scorsi vi è stato un primo grande incontro con i paesi che hanno dato una prima adesione, sono già circa una sessantina, e è venuto fuori un quadro molto incoraggiante. Certamente si sono persi quasi 3 anni, perché è dal marzo 2008 che è avvenuta l'assegnazione, insomma, diciamo che gli amministratori precedenti hanno un po' cincischiato attorno a delle cose che non avevano grande importanza e grande valore, come la scelta del manager piuttosto che quanti soldi dargli. Però detto questo, oggi attorno all'amministratore Sala si è costruito comunque un gruppo importante e finalmente si è costituita la città Arespo, che vede protagonisti la Lombardia, il comune, la regione Lombardia, il comune di Milano e la fiera, e poi con presenze minori la provincia e il comune di Rho. Io penso che quella società, che poi dovrà organizzare anche l'uscita dall'Expo, possa essere la struttura attorno alla quale mobilitare risorse ed energia. Ma quello che è importante è trasferire questo nel cuore e nella coscienza dei cittadini, far capire loro che l'Expo 2015 può essere una grande occasione, non solo per Milano, è un'occasione per l'Italia, perché questa grande esposizione rilancia l'immagine dell'Italia e fa di Milano il quadro pittorico di un ruolo rinnovato dell'Italia in Europa e nel mondo. Quindi è una grandissima opportunità che deve essere vissuta come tale e che deve mobilitare le università, i centri di ricerca, perfino le scuole elementari, e vedere di stuzzicare non solo la fantasia ma anche l'impegno dei cittadini, di quelli giovani, di quelli meno giovani, perché questa è un'occasione che, a differenza di quella che c'è stata all'inizio del Novecento, anche allora ci fu una grande esposizione a Milano, ed era una Milano che sotto la spinta di AM stava scoprendo non solo l'illuminazione della città ma addirittura la prima industrializzazione. Oggi siamo in una condizione diversa, in cui il terziario è esploso e va sempre più qualificato, ma dove però Milano può consentire il passaggio verso una nuova banda delle telecomunicazioni, cioè diventare una città modello in cui però la qualità della vita si è esaltata. Per questo l'Expo fa riferimento all'alimentazione, e io penso che il tema dell'alimentazione, così come il tema dell'energia, così come la qualità della vita legata alle dimensioni della mobilità interna di una città, siano degli elementi che sono destinati a cambiare in maniera molto radicale l'approccio del cittadino nei confronti della città. Soprattutto se riesce a cambiare anche la qualità della politica, può essere anche un momento in cui si può dimostrare che un'amministrazione di sinistra come quella del Comune di Milano e un'amministrazione di destra, se valgono ancora queste categorie come quella della Regione, possono comunque dialogare insieme e fare qualcosa di costruttivo. Io penso proprio che più che individuarle come di sinistra o di destra, quello che serve è recuperare una buona politica, quella delle persone per bene, perché Milano in generale, ma l'Italia in modo più specifico, ha bisogno di recuperare questi valori. Il valore di una politica di servizio, senza la quale noi arriveremo a scannarci dividendoci interessi che diventano via via sempre più ridotti, e invece di avere un ruolo da protagonisti come c'è stato nei secoli del Rinascimento, avremo un ruolo di persone che cercano solo di succhiare la ruota, e questo non è buono, non è degno per la tradizione italiana, neppure per quella milanese che, venendo dalla grande tradizione ambrosiana, ha il diritto dovere di guardare in avanti con fiducia e di essere all'altezza delle sue tradizioni più vive e più importanti. Quindi, ecco, per concludere, un grande richiamo all'efficienza della politica, alla capacità anche tecnica, costruttiva, competente, ma in un'ottica appunto di servizio complessivo alla realtà sociale, di servizio ad una crescita che deve partire poi dal rispetto di ogni persona, delle sue capacità, delle sue competenze. La politica, per essere buona, deve essere competente e professionale. Poi ci si può dividere sulle soluzioni tecniche che si danno ad ogni problema che nasce, ma se non c'è la competenza, se c'è solo la esigenza di dividersi come se fossero degli arruffapopoli, non serve, finisce per distruggere risorse e per distruggere futuro. Grazie, speriamo che sia questo un pericolo da evitare e che il futuro possa essere invece un futuro che siamo in grado di costruire, costruendo la speranza di ciascuno di noi, soprattutto delle nuove generazioni. Grazie direttore. Grazie a Bruno Tabacci, assessore al bilancio del Comune di Milano, di essere stato con noi questo pomeriggio, così come ringrazio Luca Cremonese, Stefania Tagliaferri in redazione e Fabio Cantadori in regia. Vi ricordo che questo programma può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie ancora, buona domenica.